piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Io faccio la mia vita normale, tranquillissima, non sto cambiando nulla, tant'è che sto anche prenotando un viaggio in Oman per i primi di aprile. Sto già scrivendo il testamento. Penso che se si adottano le normali precauzioni igieniche di tutti i giorni, io penso che uno potrebbe essere abbastanza esente da un eventuale contagio. Se questo virus nasce in un laboratorio di guerra batteriologica, chi l'ha inventato ovviamente l'ha inventato affinché non fosse neutralizzato, perlomeno non fosse neutralizzato molto facilmente. Le voci che avete sentito appartengono a una nostra trasmissione del 29 gennaio. Allora si cominciava a parlare di Covid-19 come fenomeno cinese. Noi avevamo avuto 2 giorni prima il professor Burioni, che fino a quel momento era stato chiamato a parlare di vaccini, a parlare di omeopatia. Pensavamo quella mattina di chiamarlo su quella novità che veniva dalla Cina, che sembrava non doverci riguardare. 2 giorni dopo sottoponemmo al pubblico questa nostra scala Manzoni per saggiare quello che erano i loro atteggiamenti, il loro sentire rispetto a questa cosa così lontana, almeno sembrava. C'erano 5 gradi, si andava dal fatalismo scettico fino alla paranoia pandemica. In generale l'atteggiamento era di cauto disinteresse, sembrava una cosa lontana. Infatti avete sentito questo ascoltatore, si preparava un viaggio a Oman per aprile, chissà se che avrà fatto aprile, chissà se starà ancora piangendo per i biglietti che non gli sono stati rimborsati, chissà cosa sarà di questo ascoltatore. Oggi ci troviamo in una fase diversa, l'avete sentito da tutti i nostri giornali radio, ma basta leggere i giornali, basta essere stati davanti al televisore dalla serata di sabato. C'è una novità da oggi in maniera accelerata e forse anche imprevedibile: l'Italia sembra che stia per ripartire. L'unico limite ancora è l'uscita dai confini regionali, che però cadrà i primi di giugno. Quindi da oggi, io ancora non ho messo il naso fuori casa, ma sentendo gli inviati di Radio 24 dalle zone nevralgiche del paese, mi sono reso conto che sembra che tutto fuori sia tornato alla normalità. Una normalità che già era stata in qualche maniera presa in maniera autonoma da un'infinità di persone. Io l'ultimo giro che ho fatto in bicicletta con mio figlio è stato domenica le allegre combriccole, che sembravano ormai aver superato ogni pericolo e ogni prudenza, erano le padrone indiscusse della città. La popolazione che ha interpretato come nuovo vezzo, nuovo look, nuova maniera di vestirsi, la mascherina a mezz'asta, la mascherina al collo, la mascherina al polso, sembravano ormai guardare con sfida chi ancora, come se fosse un pauroso e reticente e insensibile al grido che saliva dal popolo, ancora indossava la mascherina in maniera corretta. Beh, questa mattina vogliamo riproporre al pubblico, e guardate che è molto importante, un nuovo sondaggio. Qual è il vostro atteggiamento questa mattina? Sì, perché è inutile dirlo, anche in questo siamo divisi in diversi atteggiamenti. Chi è felice dice: finalmente è caduto tutto, si ritorna alla normalità che vogliamo che sia, basta, hanno esagerato, riprendiamo il lavoro, via dicendo. Questo è un decreto che indubbiamente ha subito una forte influenza dalla necessità politica, dalla necessità economica, e se ne è discusso fino a notte inoltrata fra governo e regioni, e alla fine è venuta fuori questa sorta di linea da interpretare, centinaia di pagine a leggersi anche nelle virgole per capire esattamente in che maniera, per il proprio esercizio commerciale, per la propria attività individuale, vada interpretata questa riapertura. E voi? E voi a casa cosa avete fatto questa mattina? Mi interessa sapere, a distanza appunto di 90 giorni, da quel 29 gennaio in cui saggiai la vostra risposta espressa alla luce di una non consapevolezza di quello che sarebbe stato, vorrei riconfrontarla oggi alla luce di un'esperienza personale sicuramente dolorosa, sicuramente problematica. Quindi 800240024, preparatevi a rispondere. Oggi 18 maggio gli italiani cominciano a lasciarsi alle spalle il lockdown e l'obbligo delle autocertificazioni. Anche se la Covid non è stata ancora debellata, le limitazioni alla circolazione e alle attività si stanno riducendo. Oggi vogliamo fare un sondaggio in diretta per sapere che cosa è cambiato nei vostri comportamenti da questa mattina. Qual è la vostra percezione personale del rapporto tra rischio della salute e libertà di movimento? E di conseguenza, da quale di queste categorie vi sentite oggi meglio rappresentati? Chiamate all'800240024 e dite se da questa mattina vi sentite più... 1. Decretisti incondizionati. Ho studiato nel fine settimana tutte le 21 pagine e i 120 allegati definitivi del decreto del Presidente del Consiglio. Farò solo quanto mi è concesso, applicando alla lettera tutte le misure previste, sia nelle libertà che nelle precauzioni. 2. Scettici autoconfinati. Il decreto risponde più a una necessità politica che di sicurezza sanitaria. La Covid non è di certo sparita, quindi farò ancora un po' di sacrifici e manterrò le norme di sicurezza più strette di quelle consentite, per me e per la mia famiglia. 3. Libertari svincolati. Sono più di 2 mesi che aspettiamo questo giorno. Interpretiamo il decreto come il via libera per riprendere la nostra vita sociale e lavorativa come prima. Il nostro motto è mascherina a mezz'asta. Avete visto? Ci è sembrato di riassumere in queste 3 categorie quelli che possono essere i 3 filoni comportamentali diffusi negli italiani. Quindi chiamate l'800240024 e fatemi capire se questa mattina siete dalla parte dei decretisti incondizionati. Sono quelli ligi comunque a quello che è il dettame governativo, che si mettono lì, si stanno leggendo tutte le pagine, gli allegati, le varie voci del decreto, cercano di capire al meglio quello che bisogna fare, fiduciosi del fatto che questo sia il giusto mix fra punto di vista oggettivo degli scienziati, che in qualche maniera dovrebbero far guida rispetto ai comportamenti in un momento particolare, e la necessità politica di dover in qualche maniera dare una risposta alla voglia e al desiderio, alla necessità di riprendere il lavoro, di riprendere le attività. È molto difficile dirlo, ma a questo punto è chiaro che è una via di compromesso, però questo compromesso siamo fiduciosi che sia il miglior compromesso possibile. La seconda categoria è una categoria che in realtà ha piena consapevolezza di quanto questo compromesso in realtà non tenga conto del fatto che ancora il Covid-19 esista a tutti gli effetti. Quindi sono quelli che questa mattina dicono: nonostante ci sia una maggiore libertà, io non andrò al bar a prendere il caffè, non andrò a farmi i capelli anche se ci sono delle circostanze di sicurezza maggiori, non mi unirò alla folla in qualche maniera che andrà in giro come se nulla fosse accaduto, ma rimarrò guardingo ad aspettare e vedere cosa succede. È un po' un atteggiamento pessimistico, però è un atteggiamento comprensibile. La terza categoria sono i libertari svincolati, sono le persone che in qualche maniera hanno sempre pensato che fosse tutto un'esagerazione, fosse tutto un desiderio, un bisogno di tenerci in qualche maniera vincolati, usando la scusa della epidemia per applicare delle forme liberticide che non tengono conto delle necessità degli italiani, la schiavizzazione dei sanitari, degli scienziati, dei medici. Insomma, è tutta una cazzata. Prendiamo l'occasione e mettiamoci a fare quello che avremmo sempre fatto comunque. 800240024, Giuseppe da Ferrara. Innanzitutto, da quale categoria si sente più rappresentato lei? Ah, beh, alla quarta di lavoratori, di quelli che sono on bar, diciamo. Quindi sono dentro. cerchi di entrare però in queste tre. Cerchi di entrare in queste tre, dal suo punto di vista, il suo atteggiamento di fiducia piena di quello che è il decreto governativo, quindi si attiene alle regole. Si tiene un passo indietro, fa un passo avanti, ecco, questa è la sintesi. Noi siamo costretti a tenerci al decreto, perché siamo in un bar, diciamo che sei in una sorta di bar, e quindi stiamo applicando, proprio in questo momento in cui ti parlo, stiamo prendendo le misure per la distanza tra tavoli, fuori, dentro, al banco. Che sono cambiate, quindi... mi pare, le misure, adesso ho troppe pagine da aprire, mi sembra Ma sono guarda, un po' cambiate. Spiego brevemente, spiega, 24 perché ore da 4 metri quadri sono diventati un metro lineare. E quindi è cambiato tutto in 24 ore. Quindi hanno regalato 3 metri, praticamente. No, sono 2 per 2, quindi 4 metri quadri sono 2 per 2, quindi erano 2 metri lineari. Hanno regalato quanto? Quindi hanno regalato un metro in più. Il problema adesso è la movida, che è il tema di cui stiamo discutendo in queste ore. Chi lavora in strade o piazze dove la notte si sono sempre incontrati in passato i ragazzi ha un bel problema, perché ora come recepiranno i ragazzi questo tutti fuori? Perché poi alla fine è così. Oggi ho letto su un giornale, un quotidiano dei maggiori, è finita la quarantena, che credo che sia un libera tutti eccezionale. Sì, cioè, più o meno la notizia sembra questa, quando in realtà se uno guarda nelle pieghe del decreto, quelle che nessuno vuol leggere, sì, ci si può vedere con gli amici, ma bisogna stare a un metro di distanza. Oggi in realtà tutti monteranno su tutti senza porsi problemi, questo è scontato che accada. Però d'altronde questa è la linea, mi sembra chiaro. Senti, ma come gestite voi la terza categoria, quelli i libertari svincolati che comunque potrebbero crearvi problemi di gestione? Quando arriva una truppa di ragazzi che è assolutamente inconsapevole, che ti metti a fare il poliziotto? Guarda, infatti stiamo provvedendo a chiamare la sicurezza. Noi che bene o male abbiamo anche attività non legate solo agli alcolici, perfino quelle metteranno una persona alla sicurezza che farà contingenterà gli ingressi. Quindi avremo qualcuno. Cioè, devi pagare un vigilante che, devo pagare un vigilante. Dice mettiti la mascherina. Per la mascherina, perché non entrino in gruppo ma ne entri uno solo per volta, perché non formino assembramento subito nei pressi. Non stiano per mano, non si bacino, non si abbraccino. Beh, il bacio no, quello se lo daranno a qualche metro da noi, credo, presumo. Poi e non fanno un metro di distanza, come fanno a baciarsi? Un prolungamento labiale. Nell'ambito familiare sai benissimo, Nicoletti, sai benissimo che nell'ambito familiare puoi fare tutto, puoi anche sederti al ristorante a meno di un metro. Ho capito, . Giuseppe, allora io se vengo al tuo bar, ti faccio un esempio, accompagnato da una gentile signora. E che l'ho fatto vedere il certificato che è mia moglie, la mia fidanzata, no, la donna con cui convivo. Lo dichiari. Ma basta così. Sì, quindi sì, mi raccatto chi mi capita e chi è gentile di accompagnarmi e dico che con questa persona ho un rapporto promiscuo decennale. La normativa non dà dei limiti a questo. Quindi, vedi che c'è facoltà di interpretazione personale ampissima. Grazie Giuseppe. Francesco, provincia di Cuneo. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Quale categoria? Io sono decretista fin in fondo. Quindi lei con pazienza certosina adesso si studia decreto, allegati e cerca il più possibile di stare alle regole, anche se diciamo certo. Ci sono sempre dei margini individuali. Anche perché la mia libertà finisce dove inizia la libertà degli altri, per cui se io non voglio contagiare gli altri devo darmi una regolata alla mia libertà. Lo sa quante persone l'avrei detto ieri, ma mi sono stancato anche di fare il poliziotto, di guardare male gli altri. Le famigliole ti passano accanto con bambini che strillano, che urlano, che si rincorrono, che fanno casino, tenendosi tutti per mano, con un cane 10 persone, anche perché c'è ancora se devi portarsi il cane, se una sorta di salvacondotto. C'è un cane avanti, poveraccio, che si vede che ha le piaghe ai polpastrelli, per quanto l'ha fatto girare, e dietro 10-20 persone, famiglie, amici, tutti assieme, tutti dietro lo scudo di questa povera bestia. Grazie da Milano. Eccomi. Quale categoria lei si colloca? Io, Nicoletti, direi la seconda, cioè non ho letto tutto il decreto e non ho voglia di leggerlo, però un po' di prudenza, sì. Come dico, e quindi cosa farà di prudente oggi? Cosa non farà che le sarebbe lecito? Andrà al bar a prendere il caffè e sedersi al tavolino? Sì, ci vado, sto con la mascherina fino a quando mi portano il caffè, poi me la levo, bevo il caffè e poi vado via. Insomma. Beh, questo c'è scritto nel decreto, questo può fare, questo non è prudenza eccessiva. Sì, ma qual è un po' di la cosa che non la convince? Finora mi facevano la spesa loro, adesso proverò a fare la spesa io, queste cose, insomma, piano, si avventura. Piano piano. Va bene. Si avventura con cautela. Enrico da Milano, buongiorno. Sì, pronto, ciao signor Nicoletti. Velocemente, quale categoria? Io sono nella terza più che altro, io faccio l'autista, praticamente non sono mai stato chiuso in casa, a parte una ventina di giorni in aprile, e sinceramente sì, mascherina, l'igiene, le mani, tutto quello della distanza, tutto quello che può essere, però non ho mai avuto questa grande paura. L'unica cosa che... Però lei è un decretista, allora, lei è un decretista. La terza categoria sono quelli che hanno detto, ma sì, chi se ne frega, tanto non potranno controllare tutti, e quindi se ne allora, vanno con gli amici a spasso, abbracciati, entrano nei locali, siedono. No, lei è decretista, beh, no, bisogna capirlo. Laura da Varese, Laura, buongiorno. Buongiorno. Io mi riconosco nella categoria 2 soprattutto per il fatto che abbiamo avuto un pesante lutto in famiglia e io poi sono uno studente, quindi non devo riprendere l'attività o ho necessità di andare a lavorare, quindi continuerò a cercare di studiare e fare gli esami online. Però lei diciamo delle categorie che la seconda, geograficamente stanno in zone più colpite, quindi dice io ci sto attento perché ho visto la gente morire, per me non è uno scherzo. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Siamo ben contenti di ricominciare, soprattutto perché per molti Roma deserta è bella, però per noi che lavoriamo è ancora più bella se la vediamo piena di gente che si muove, che spende, quindi è meglio per tutti sicuramente. Finalmente le serrande dei negozi, dei ristoranti e dei centri estetici riapriranno dopo oltre 2 mesi di chiusura. Un periodo difficile per tutti, sarà dura, ma sono in tanti a volersi rimboccare le mani. Chiamate all'800 24 00 24 e dite se da questa mattina vi sentite più... 1. Decretisti incondizionati. Ho studiato nel fine settimana tutte le 21 pagine e i 120 allegati definitivi del decreto del Presidente del Consiglio. Farò solo quanto mi è concesso, applicando alla lettera tutte le misure previste sia nelle libertà che nelle precauzioni. 2. Scettici autoconfinati. Il decreto risponde più a una necessità politica che di sicurezza sanitaria. La Covid non è di certo sparita, quindi farò ancora un po' di sacrifici e manterrò le norme di sicurezza più strette di quelle consentite, per me e per la mia famiglia. 3. Libertari svincolati. Sono più di 2 mesi che aspettiamo questo giorno. Interpretiamo il decreto come il via libera per riprendere la nostra vita sociale e lavorativa come prima. Il nostro motto è mascherina a mezz'asta. Sono grato a Peter Bescapè e Lorenzo Nespoli che mi permettono da Milano di andare in onda. Da Roma c'è Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Oggi cerchiamo di saggiare qual è l'atteggiamento medio degli italiani verso quella che la notizia può essere sintetizzata nel finalmente si può uscire. I limiti sono rimasti minimi, sono quelli di poter uscire dai confini della propria regione e quelli di dover mantenere comunque una distanza di sicurezza con gli altri esseri umani che viene definita sommariamente a 1 metro. Qui davanti a me è 1 metro e gireremo sempre con il metro. Chi mi vede dal sito di Radio 24 può vedere che ho dipanato il metro. E diciamo, il metro è la distanza che più o meno intercorre fra le due telecamere che mi mandano in onda video. Quindi niente, è un pugno. A 1 metro non si può fare nulla di promiscuo, ma si può comunque parlare, vedersi e sentire il senso, almeno il profumo dell'altra persona, se la mascherina lo permette. Allora cominciamo, 800 24 00 24. Le tre categorie sono decretisti incondizionati, quelli che leggono il decreto e tutti gli allegati e si attengono rigidamente a quello che ci sta scritto, senza farsi domande. Scettici autoconfinati sono quelli che, al contrario, nonostante il decreto, mantengono delle ulteriori circostanze di sicurezza personali individuali. Terzi sono libertari svincolati, sono quelli che alla fine, dopo 2 mesi, hanno deciso di fare di testa loro, approfittano delle maglie allargate per allargarle ancora di più e prendersi altre libertà. È molto chiaro, è molto semplice. Laura da Prato. Sì, buongiorno signor Nicoletti, sono Laura da Prato. Io diciamo opterei per la seconda scelta, cioè degli scettici autoconfinati, perché allora, innanzitutto questo isolamento, diciamo, ha generato in me una sorta di misantropismo, per cui esco da casa e francamente vedo persone indisciplinate, ho anche una sorta di insofferenza e non nego anche di paura. Diciamo, lo so perché è una condizione che condivido anch'io, il senso generale che molti noi hanno di insofferenza verso i comportamenti incivili altrui, che ci porterebbe sempre a essere giudici dei comportamenti degli altri, ad essere acuito. Perché? Perché rischiamo la pelle, rischiamo di più e ci dispiace, esatto. Ci fa arrabbiare. Però bisogna fare un'operazione zen, perché non possiamo chiaramente ucciderci il fegato ogni volta dicendo a quel che perché tieni la mascherina come se fosse un collarino, che è ridicolo, allora non te la mettere. Ste mascherine a metà che non si capisce. Però è una paraculata, che io ce l'ho, semmai la tiro su, la tiro giù un attimo, fa vedere che mascherine che ormai hanno la sugna di settimane di uso, siede, sono marroni, capito? Però dice, io ce l'ho, non mi dovete dire niente. E naturalmente lei dice io starò un pochino più attenta, non mi fido della gente, sto un pochino più attenta. Yuri Verbania, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletti, complimenti per il programma, grazie mille. Allora io sono della categoria 1, ma non perché ci sia la lettura e l'applicazione, come dire, petizia qua della normativa. Più che altro credo che fortemente abbiamo bisogno di persone che si attengano alle regole normali. Quindi la normalità è stare attenti, adesso è un'altra normalità e mettersi in sicurezza. Quindi che ci sia scritto, che non ci sia scritto sulla normativa, bisogna cambiare le proprie abitudini. Io ieri camminavo sul marciapiede, persone davanti a me venivano in senso contrario, io avevo la mascherina, loro no, ho cambiato il marciapiede per evitare di incrociare qualcuno, insomma. Anche perché, diciamo la verità, oramai è come una sfida fra tifosi di squadre avverse. Se tu guardi, vieni guardato con l'aria di dire oh, che cazzo vuoi, che te frega, fatti i fatti tuoi. Quindi a me non tiene gli occhi bassi davanti e cambia strada, mi sembra giusto. Riccardo da Roma, buongiorno. Sì, ciao. Sì. Allora, io attualmente non mi riconosco in nessuna delle tre. Spiego anche il motivo, più che altro volevo fare una domanda importante. Come saranno, più che altro, come si può credere nelle istituzioni dopo coronavirus? Questa è una domanda che mi... Diciamo, ma perché cosa è cambiato? Cosa è cambiato, secondo lei, rispetto a due mesi fa? Ma nella allora, fiducia me, verso le istituzioni? Secondo me è cambiato il fatto che comunque io penso che attualmente non... Io ovviamente penso, parlo per me, non so più come poter riconoscere poi più avanti le istituzioni, soprattutto quelle a livello politico, a livello scientifico, anche perché secondo me si è dimostrato, perché io lavoro in call center, parto da questo posto, quando c'è stato l'inizio del lockdown a noi non avevano all'inizio mai chiaramente detto bene e specificato bene anche nelle norme del decreto. Tant'è che noi qui a Roma abbiamo avuto anche, io parlo per me, ho avuto anche difficoltà una volta a recarmi al lavoro, nonostante la mia società è una società bene primaria. Sì, adesso entriamo nel caso specifico. Lei, secondo lei, si ingenera una sfiducia nelle istituzioni? Io non sono mai stato uno strenuo difensore dello statu quo, ma sempre metto il dubbio, il beneficio del dubbio e il piacere del dubbio. In questo caso però ci si muoveva su qualcosa che non si conosceva, si andava molto per tentativi e ancora una volta, lo ripeterò fino alla stanchezza, lo scienziato, a differenza dello stregone e del mago, ha un metodo che impone comunque delle verifiche e in corso d'opera e i tempi delle verifiche non sono in linea con i tempi di chi vuole risposte immediate. Adesso lo giudicheremo a posteriori e probabilmente fra qualche anno come si sono comportate le istituzioni, ma le istituzioni sono anche i medici che ci hanno curato, sono anche gli infermieri che ci hanno curato, sono anche quelli che in qualche maniera oggi stiamo tutti lì con le mani giunte a a guardare con lo sguardo di implorare dateci aiuto, dateci qualcosa. Sono anche quelle le istituzioni. Io non vedrei soltanto un disegno di incapacità totale, lo giudicheremo a posteriori. In questo momento cercheremo di pensare che oggi è molto più affidato tutto alla nostra responsabilità individuale. Possiamo stare sempre come bambini a aspettare che sia il papà e la mamma a dirci come comportarci. Linea di massima, linee di comportamento sono molto chiare. State attenti, visto che c'è una necessità, cominciamo a riaprire, però state attenti e mantenete comunque l'attenzione. Mi sembra chiara l'atteggiamento. Barbara da Firenze, buongiorno. Sì, ciao Barbara. Ascolto. Sì, buongiorno. Allora, io diciamo che più che altro sono molto decretista perché non mi fido delle persone. Questa è una parentesi, semplicemente perché io vivo nel bosco, in un boschetto qui vicino, e ho trovato mascherine e guanti anche negli anfratti del bosco. Quindi le persone che magari vengono dalle nostre parti a farsi le passeggiate anche con le mascherine hanno lasciato anche sporcizia. Io sì, diciamo che le strade sono piene di mascherine e guanti. Sì, non so perché la gente le butta per strada. Infatti, mi sembra tanto, però, tanto cioè, assurda. Scusi, una posizione, una cosa. Sì, usano sì. Le persone, attenzione a raccogliere la cacca del proprio cane, che è un'operazione sì, che e non raccolgono, sì. Non, una mascherina che è roba tua al 100%, portati un sacchetto dove metti le mascherine vecchie, guanti usati, chiuso, e poi butti anche quello lì, non so. Infatti, io passeggiando con la bimba, così vicino a casa, perché abito un po' isolata, quindi c'è la nostra casa, poi un'altra a un chilometro. Tanta gente prima veniva a farsi le belle passeggiate, però mi è dispiaciuto tanto ritrovare appunto in questo passeggiare. Sì, però non cambia molto questo, non è uno specifico, perché una volta buttavano via altre cose e adesso buttano le mascherine. Noi nelle giornate una volta trovava fazzolettini, preservativi, buste della spesa, di tutto, oggi vede le mascherine. Sono sempre le stesse persone che hanno un uso spregevole degli spazi pubblici. Ci fermiamo ancora un istante, come voi. Oggi il tempo vola velocissimo. Vado subito alle telefonate che sono tantissime. Oggi gli italiani hanno voglia di esprimere il loro punto di vista. In generale mi sembra ci sia una prevalenza dell'ala decretista, delle persone che comunque hanno fiducia nel decreto, fiducia nella mediazione che è stata scelta per fare un passo avanti rispetto alla reclusione. Luca da Firenze. Eccolo. Allora, qual è la Buongiorno. Tua posizione? Ciao, allora io ho detto tre. Ora poi. Quindi, come si declina nell'atto pratico la terza posizione? Che è quella, diciamo, di chi ha deciso di fare di testa sua, di andare oltre, di allargare le maglie che si sono allargate. Ecco, questa è la posizione. Come pensi di tradurre la terza? Con comunque le precauzioni, quelle ormai ce le abbiamo forse addosso. Ce l'abbiamo intrinseche, ce l'hanno, la quarantena ci ha portato ad uno modus pensandi diverso e quindi anche gli atteggiamenti. Per cui sì, la mascherina, io anche ora ho la mascherina, sto entrando dentro un negozio, finalmente. Però ecco, in via privata, anche ieri sera era cena con degli amici, eravamo tutti senza mascherina. Cioè non è pensabile che si possa tenere il metro di distanza. Cioè, ci siamo guardati negli occhi di cosa si fa. Sì, sì, non è pensato. Ci soltanto... non ci si abbraccia, ci siamo abbracciati. Sì, sì, Roberto, però bisogna anche considerare che a Roma si era aperto un focolaio perché la gente era andata a un funerale, si era abbracciata, si era baciata come si fa tradizionalmente e normalmente nei funerali, è riscoppiato un focolaio, quattro famiglie adesso stanno in isolamento. Uno deve capire che l'allargarsi può comportare dei rischi, non dico come il rischio AIDS, uno dice ognuna che me ne faccio senza preservativo di botte, so che è un rischio, però sai, una persona che conosco, siamo sicuri, stiamo tranquilli, è una brava persona, rischiamo, ma che mi importa, benissimo, finché va bene va bene. La stessa cosa oggi vale nelle cenette con gli amici, gli abbracci tra amici. Il giorno che scoppia un focolaio uno magari ci pensa di più, ma non voglio fare il pessimista, esiste questo atteggiamento, dire basta, non ci poniamo più il problema, siamo tutti di età fuori di essere, diciamo, esenti da rischio, perlomeno immuni da rischio, quindi possiamo anche permetterci questo. Non dico che sia sbagliato, dico che è un atteggiamento dei tre che abbiamo proposto. Roberto da Vicenza ha parlato. Buongiorno, ciao Peter. Roberto volevo... da Vicenza. Sì, mi senti? Ciao. Sì, sì, certo. Ciao, io sono del tipo 3 sicuramente, perché sono molto responsabile quando vado in giro, però se sono da solo all'aria aperta la mascherina la tengo giù e se viene qualcuno di fronte la tiro su. Per rispetto... Allora sei quelli con le mascherine a mezz'asta, sì. Ah, perché si tiene bassa per questa ragione, quando uno è solo la tiene giù, quando vengono gli altri la tira su. Ma sicuramente che... all'aria aperta io penso che la mascherina non abbia nessun senso di tenerla su, perché bisogna anche un attimino respirare. Sì, però bisogna capire l'attività. Allora, se è una strada molto frequentata, piena di gente, andrebbe tenuta sempre giù. Se è piena di gente, è ovvio che non basta il distanziamento sociale, allora prendiamo precauzione. Sì, sì, però, su questo però, siamo d'accordo. Però abbiamo anche dei bambini che comunque cominciano a essere insofferenti, si vedono con gli amichetti, vanno in giro per strada, vanno a giocare insieme, come giusto che sia, e sicuramente non tengono su una mascherina, ed è anche giusto. Sì, sì, anche giusto, però sono dei potenziali veicoli di infezione, però questo bisogna capirlo, è anche giusto. L'abbiamo capito, però basta anche smetterla di far terrore adesso, bisogna anche informare la popolazione che il virus è più debole, che ha cambiato l'approccio medico alla malattia, le terapie si stanno intensive, si stanno svuotando, e bisogna anche dare un po' di coraggio a queste persone, cioè non possiamo sempre fare. Sì, però Robert, io guarda, non voglio sembrarti un bigotto, ma è più debole e ci sono ottimistiche ragioni di pensare che ci sta lavorando bene, perché è stato osservato un distanziamento, delle regole. I vantaggi che abbiamo oggi sono sui nostri sacrifici passati. Quello che accadrà da oggi in poi lo valuteremo fra 3 settimane. Non è esattamente così, è più debole, quindi riapriamo tutto. Anch'io penso, sono perfettamente consapevole dei limiti della vita condizionata, però i bambini che vanno in giro e sputazzano e fanno casino, come è loro diritto farlo, possono essere bambini che possono comunque essere portatori di un problema per altre parti di popolazione più anziane che entrano in contatto con loro. Gian Domenico da Roma. Sì, ciao, complimenti per la trasmissione. Esprimi il tuo atteggiamento, li stiamo valutando tutti, come vedi, non è che valuto tutti i punti di vista, sono questi, esistono questi punti di vista, è inutile far finta che non esistano, c'è anche chi pensa questo, dice ma chi se ne frega, basta, i bambini vogliono uscire, far casino, è giusto che sia così, pensiamo a loro. È un atteggiamento che evita di pensare alle persone che in realtà potrebbero lasciarci la pelle, questo è indubbiamente così, o uno o l'altro, uno fa delle scelte, non è detto non debba fare delle scelte, fa delle scelte, è un funambolo, il nostro comportamento è quello del funambolo che è sospeso sulla fune, sa esattamente che tornare indietro di un passo comporta comunque dei rischi, fermarsi comporta dei rischi, andare avanti comporta dei rischi, e non c'è soluzione al mito del funambolo, anche perché poi nel suo racconto originario di Nietzsche il funambolo si schianta. Allora avanti, Francesca da Bergamo. Ah scusa Gian Domenico, tu non hai detto la tua, dimmi la tua, scusa Gian Domenico. No, Scusa. Io sono assolutamente favorevole al decreto, sono quelli del primo gruppo e cerco di rispettare tutte le norme che sono state messe in campo, anche perché sicuramente se abbiamo avuto dei risultati positivi è dovuto al distanziamento, a quello che viene fatto. Ti dico che il tuo è l'atteggiamento al momento che dal nostro sondaggio per il valore statistico può avere, che abbiamo più registrato, la maggior parte degli italiani comunque pensano che la cosa migliore sia rimanere ligi il più possibile al decreto, cioè seguire una linea, fidandosi che la linea governativa sia il giusto compromesso fra le esigenze politiche, economiche, occupazionali e le esigenze mediche. Quindi ci muoviamo in questa linea, questo è il tuo atteggiamento. Francesca da Bergamo. Ciao Nicoletti, buongiorno. Io sono qui della seconda categoria, anzi in realtà mi trovo un po' in mezzo tra la prima e la seconda. Stando a Bergamo è anche comprensibile. Sì, poi io sono farmacista, quindi ho vissuto giovane, tra l'altro, quindi appena laureata da un anno neanche, ho vissuto l'emergenza in maniera molto forte e sinceramente di tornare completamente alla normalità o comunque la pseudo o ben... quasi normalità che il nostro decreto ci porta a fare e non riesco, nel senso... Allora aspetta, mi arriva adesso una notizia dei nostri esperti che stanno analizzando i dati, io mi basavo su una mia lettura superficiale. No, la maggior parte delle persone che stanno chiamando sono sulla posizione 2, quella di avere una maggior prudenza. Ecco, il dato nuovo è questo, alla fine quasi della trasmissione, mi arriva adesso il dato fresco, il mio era semplicemente basato su delle impressioni nelle prime due parti della trasmissione. Al momento il dato si sta consolidando nel nostro sondaggio, che non ha nessun valore scientifico o statistico, ma è la somma dei pareri di una fascia media di italiani che a quest'ora ascoltano la nostra radio, è quella di avere una maggiore attenzione. Va bene il decreto, ma noi facciamo un passo indietro anche rispetto alle aperture che sono state date. Quindi è in linea con quello che dice la nostra amica farmacista. Massimiliano da Firenze. Ciao, sono Massimiliano, chiamo da Firenze e faccio parte della categoria 3, che però è una categoria un po' particolare. Perché praticamente che cosa faccio? Io mi sono fatto un'idea mia personale, che secondo me bisogna proteggere molto le persone anziane e malate e vivere la vita più normale possibile tra persone che non hanno problemi di nessun tipo. Quindi chiudiamo tutti gli anziani da 65 anni su, li chiudiamo dentro casa? No, per esempio io ho dei soceri, che anziani, sui genitori purtroppo non li ho più, che io non entro mai in casa loro, gli faccio la spesa, gli lascio la spesa, cioè ho un'attenzione plateale per le persone anziane, mentre poi per tutto il resto vivo la vita normale. Sì, questa è una linea che in altri paesi l'hanno adottata, creiamo un recinto fra le persone più anziane e quelle più giovani, sperando che anche le infezioni sui più giovani non causino poi effetti che ancora non conosciamo. Tengo lontano anche mia figlia dai miei un punto di vista, salvaguardiamo le persone, considerando che poi il nostro è un paese che non ci sono solo i soceri che stanno dentro casa, la maggior parte delle persone che tornarono al lavoro i primi di maggio, mi sembra che era il 5 maggio, l'8 maggio, ricordo bene, avevano un'età che andava dai 45 ai 55, una cosa del genere, forse anche di più, appartenevano comunque alle categorie più rischiose, quindi l'asse portante del lavoro nel nostro paese sono persone che sono in età a rischio, non sono ragazzini. Allora, Alessandro da Novara ha parlato. Sì, buongiorno, io faccio parte della categoria 3 perché mi sono creato un decreto personale, ecco, ma sia dalla soprattutto nella parte iniziale, dove ero invece più divertito, quindi esempio, lavoro a Milano ma ho la fortuna di vivere sul Lago Maggiore in mezzo a montagne e io prendevo tranquillamente la mia mountain bike e facevo anche 50 km che non si poteva uscire di casa perché secondo me da solo non davo fastidio a nessuno. Se da solo, se tutti facevano questo ragionamento, eravamo pieni di persone sole che facevano massa. Vabbè, abbiamo dato il punto e il polso di quello che è il sentire degli italiani in questa mattina, per quanto abbiamo potuto. Alla prossima.